Con Eros Puglielli, regista del film Copperman, in sala da giovedì 7 febbraio 2019. Eros, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Intanto è un piacere averti di nuovo qui con noi, di nuovo sul grande schermo. Cos'è successo nel frattempo? In realtà ho fatto una quarantina di serie di televisive, ma di poco, insomma, più o meno questa. Dopo Occhi di Cristallo, mi è capitato di fare moltissime poliziesche e thriller per la televisione, e poi anche non solo, devo dire, insomma, anche del film, diciamo così, di carattere un po' storico, un po' melò anche. Però, diciamo, fondamentalmente ho fatto poliziesche e thriller. Ok, e allora spieghiamo anche un po' l'origine di questo ritorno al grande schermo. Beh sì, ho fatto, diciamo, quest'anno una specie di doppio ritorno perché al Festival di Roma è andato il mio film precedente, si chiama Nevermind, che uscirà in seguito, però esce prima questo film che ho realizzato successivamente che si chiama Copperman. Copperman è un progetto che nasce, mi è stato proposto fondamentalmente un paio d'anni fa, una sceneggiatura quindi non mia. Però che appunto quando l'ho letta ho detto, cavolo, ma qua ci sono tutti quanti i miei temi, ci sono tutte le cose a meccare, no? Per cui l'ho sentito molto personale fin dalla prima versione di sceneggiatura. E quindi nasce un po' così, appunto, un film che parlava appunto, di diversità come diciamo, non l'essere diversi, ma l'essere speciali, quindi, o comunque l'essere, diciamo, unici, ecco. Questa spinta però in contrapposizione con le spinte che ci sono di omologazione, no? Nella società, no? Per cui quel certo tipo di aggressività, no? Che dobbiamo subire tutti per stare dentro certi canoni, no? E allo stesso tempo un film di fatto su un supereroe senza superpoteri, ma il cui superpotere è proprio quello di credere in quello che fa e di essere animato da buone intenzioni, da purezza di spirito e di mente. Quali sono gli elementi della scrittura che più ti avevano convinto? Da questi che ho appena detto, nel senso, Ok. appunto, far trascendere appunto il tema che potrebbe essere il tema dell'emarginazione su un piano addirittura supereroistico, molto molto buffo, molto scanzonato, perché poi si tratta di un film, diciamo, che ha un tono sì delicato, ma anche molto pieno di umorismo, no? Per cui questa è per me una cosa molto importante per approcciare a un'opera. Su cosa hai spinto per farlo tuo in fase di regia? Ma sicuramente ho spinto l'acceleratore molto sull'aspetto favolistico, diciamo, l'aggiunta di una certa dose di pazzia, no? Che c'è nell'impostazione narrativa. Un film estremamente pazzo, cioè, diciamo, girandolo, comunque concependolo nelle varie fasi, mi sono un po' messo dal punto di vista del nostro protagonista, di Anselmo, no? Quindi ho un po' prodotto una realtà, non come ci appare, ma come appare a lui. E quindi siamo in un mondo in cui le leggi della fisica non sono proprio esattamente quelle a cui siamo sottoposti noi, no? E in cui possono accadere cose incredibili solamente perché ci crediamo. E in questo la scelta del cast? E in questo la scelta del cast è stata un elemento fondamentale, in quanto il cast da Luca in primis, Gabriele Aranzi, Gianluca Gobbi, Tommaso Ragno, i piccoli Sebastian e Angelica che fanno rispettivamente Luca da piccolo e Antonia Truppo che è la nostra, diciamo, protagonista femminile da grande, cioè da piccola. E praticamente, diciamo, tutti questi attori in qualche modo avevano la sensibilità appunto per partecipare a questa particolare accordatura che ha questa storia, no? C'è un particolare registro proprio, diciamo, favolistico, sospeso, molto molto delicato, e gli attori praticamente erano, sono soprattutto, a parte, diciamo, attori di grande talento, ma persone con grande sensibilità che si sono potute accordare a questo tipo di visione. Quindi è stata un po' una co-creazione, no? Questo film l'abbiamo creato insieme. Qual è il rapporto tra la favola e il quotidiano oggi? Beh, oggi come ieri la favola è un una dimensione di racconto capace di metterci in contatto con gli aspetti più oscuri, più profondi che sono nelle nostre vite. Quindi le favole sono sempre state estremamente aderenti alla realtà, no? Sono appunto proprio gli archetipi, cioè sono le rotelline che muovono la nostra psiche, che muovono i rapporti tra di noi, ci parlano delle nostre paure, come un po', insomma, se pensiamo a Cappuccetto Rosso, ha molto a che fare per esempio con l'horror, no, questa favola, eppure tante altre favole hanno queste caratteristiche, e così in questo modo la favola può raccontare quello che ci accade e scavalcare un pochino la nostra capacità di speculazione, di attribuire significati politici, significati circostanziali, no, a delle situazioni, ma di andare direttamente in profondità e arrivare alle persone su un piano assolutamente più inconscio o subconscio, no? Quindi la favola è uno strumento potente per metterci in contatto con quello che in realtà abbiamo davanti. Che uscita sarà? Allora, l'uscita è un'uscita in un periodo molto affollato, questo bisogna dirlo, quindi sosteneteci assolutamente, perché se stiamo parlando di un'uscita di febbraio con film grossissimi americani eccetera, è un'uscita diffusa su tutto il territorio, qui parliamo di 200 copie, quindi è un'uscita buona. Chiaramente il periodo è forte, no? È pieno di grossi blockbuster, specialmente la settimana prossima, quindi essendo questo un film proprio per la sala, è un film che è fatto per il tipo di percezione della sala cinematografica e ha bisogno appunto di essere fruito in questo modo, quindi io sosteneteci, sosteneteci subito, non esitate, guardate prima Copperman e poi guardate altri film. Un'ultima curiosità, il titolo e il sottotitolo? Allora, il sottotitolo ma poteva essere questo, potevano essere mille altri, no? Il titolo Copperman viene c'è sempre stato in realtà, devo dire, il primo sottotitolo di Copperman era L'uomo di rame, cioè la traduzione letterale, no? Però sì. L'uomo di rame tradotto dà una sensazione estremamente distante dal supereroe, che è la più, qualcuno che cambia i cavi, no? Sembra una storia triste, minimale, che si svolge in qualche paese del nord Italia, no? Il Copperman è un film altamente spettacolare, un film che in qualche modo è un film molto tecnico, molto anche complesso da realizzare, quindi è un film per il grande pubblico, di un film di intrattenimento, per cui il messaggio del titolo è, deve essere più questo, no? Sì. E il sottotitolo ha a che fare con il fatto che appunto i veri supereroi sono le persone che aiutano senza chiedere nulla in cambio, no? Quindi tutti noi possiamo esserlo. Bene. Anselmo fa questo, fondamentalmente non è assolutamente manipolativo, anzi è una persona che nella sua dimensione mentale non si pone neanche il problema di avere qualcosa in cambio per quello che fa. E allora ricordiamo il film Copperman al cinema da giovedì 7 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Eros Puglielli. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie infinite, ciao, a presto. Ciao caro. Ciao.